I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Buy American, hire American, ossia compra americano e assumi cittadini americani. Dalle parole ai fatti, si potrebbe dire, guardando le prime iniziative del neopresidente americano Donald Trump, che ieri di fronte a vari esponenti della comunità economica statunitense ha detto producete e assumete negli Stati Uniti e in cambio ha promesso una riduzione delle tasse portandole dal 35 sino a un 15, forse 25%. Ma Trump ha anche bloccato, congelato e probabilmente seppellito l'accordo per la partnership transpacifica, il famoso accordo TPP, e ha rimesso in discussione l'intero accordo di libero commercio tra Stati Uniti, Messico e Canada, che va sotto il nome di NAFTA. Ma è tutto da dimostrare che queste iniziative di Trump vadano realmente a beneficio della classe medio-bassa americana per due motivi in primo luogo. Il primo, molti dei prodotti di importazione sono prodotti a basso costo che vengono acquistati soprattutto da chi ha meno possibilità economiche. E bisognerebbe capire se con i dazi a questi prodotti veramente si andrà a fare un vantaggio a chi questi prodotti li acquista. Il secondo aspetto riguarda poi il reshoring, ossia il riportare negli Stati Uniti attività andate all'estero. Sicuramente ha un senso combattere la globalizzazione quando è priva di regole, ma è una pia illusione immaginare che il ritorno delle imprese americane negli Stati Uniti avverrà nelle zone in cui c'è più bisogno. Un'impresa potrà tornare o decidere di rientrare negli Stati Uniti, ma sceglierà lei dove andare e sceglierà il luogo che dà maggiori garanzie sulla produttività e su altri fattori di contesto economico. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Il governo britannico è stato sconfitto, il Parlamento è sovrano e deve avere l'ultima parola su Brexit, parola della Corte Suprema che ha pronunciato la sua sentenza, 8 giudici contro 3, che si allinea peraltro con il verdetto dell'Alta Corte. Quindi i deputati di Westminster devono essere consultati sui tempi e i modi dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. È una decisione certamente importante che peraltro dà conto anche di un efficacissimo sistema di bilanciamento di poteri proprio della democrazia britannica. Ma tutto ciò ora apre la strada a tempi più lunghi per l'uscita di Londra dall'Unione Europea ed è una doccia fredda per la Premier May che pochi giorni fa aveva usato toni ai limiti della minaccia per dar conto della scelta irreversibile dei britannici per una cosiddetta hard Brexit, vale a dire per un'uscita di scena dal mercato unico, dall'unione doganale, oltre che per un inasprimento delle condizioni di libera circolazione delle persone tra Europa e Gran Bretagna e peraltro per un futuro da paradiso fiscale proprio nel cuore della vecchia Europa. Ora la parola passa al Parlamento, dove la maggioranza dei deputati era contraria all'uscita e favorevole al Remain. Non ci sarà però un capovolgimento di fronte, ma certo è immaginabile una diversa tabella di marcia rispetto ai tempi brevi che aveva immaginato la May. Si sa già che servirà una legge per dare il via libera ai negoziati previsti dall'articolo 50 del Trattato Costitutivo dell'Unione Europea e proprio sulla messa a punto del testo si cimenteranno quindi i partiti e si sa già che sarà una grande corsa agli emendamenti per mettere a punto un disegno di legge che stemperi notevolmente i caratteri di hard Brexit che invece vorrebbe il governo. Ciò che è sicuro è che è venuto meno il tempo delle minacce e si fa largo quello della riflessione. Forse anche i britannici sanno che non è poi un grande destino quello di diventare una piattaforma per l'evasione fiscale di tutto il mondo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.